Nel dopo partita bocche cucite, le gambe sono ancora indolenzite, il pensiero ancora all'1-1 col Paraguay che impone di non distrarsi nella corsa mondiale. Ma certo l'idea che le polemiche finissero con la prima discesa in campo di Sudafrica 2010 dura giusto 90 minuti più recupero. Nello spogliatoio azzurro poi arriva l'eco della diretta di Radio Padania Libera che esulta al gol paraguayano e inneggia la difesa italiana beffata da Alcaraz. Ha segnato il Paraguay! Ha segnato il Paraguay! Ma vieni, grazie a Cannavaro che si è fatto sovrastare dal centrale del Paraguay, Alcaraz. Esultanza grottesca che si aggiunge alle polemiche sui compensi dei giocatori, a quelle sull'inno nazionale, a quelle sugli eventuali premi da devolvere alla fondazione del 150enario dell'Unità. Lo spogliatoio lascia così filtrare fastidio e insofferenza, sensazioni che Gigi Riva, anima e mentore degli azzurri, sintetizza così in attesa del prossimo capitolo. Non c'è niente da dire in questo caso, ognuno faccia quello che crede. Io sono lombardo, parlo lo stesso dialetto e non la penso così. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore, Cape Town.